Non so se in un altro paese che non l'Italia si potrebbe sentire affermare che un esponente di spicco della maggioranza ha ceduto, o come preferisce scrivere il manifesto, si è arreso alle pressioni del capo del governo, assumendo, poveretto lui, la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri. Sono verbi quelli che, più che alle vicende della politica, fanno pensare alle peripezie delle caste eroine di un romanzo dell'Ottocento, di quelle che dovevano sempre far forza a se stesse prima di accettare con il cuore in gola le profferte di un innamorato impaziente. Un ruolo che non so voi, ma a me poco sembra dirsi all'onorevole Follini, che in fondo è uno di quegli ex democristiani sulla cui avidità di poltrone nessuno ha mai avuto veramente motivo da dubitare. Ma l'Italia, dal punto di vista della comunicazione, è diventato un paese molto peculiare. È quello in cui un Berlusconi si vanta di aver tagliato le tasse nel mentre fa salire la pressione fiscale e finge di stupirsi se contro tagli si fatti poi si sciopera, e un Buttiglione si lamenta di essere discriminato perché da noi il cristianesimo, si sa, è oggetto di persecuzione peggio che sotto Nerone. È il paese delle facce di bronzo, dell'impudenza eletta a sistema, la terra in cui chiunque goda di un minimo di potere può permettersi di raccontare le più straordinarie panzane nella certezza che nessuno avrà coraggio né modo di rispondergli per le rime, e in cui dunque si può far credere tranquillamente che Follini abbia assunto la carica di vice Silvio perché proprio non ha potuto farne a meno. Così purtroppo va il mondo, ma rallegriamoci almeno al pensiero che l'irresistibile ascesa del vecchio Doroteo dovrebbe por fine a uno dei più indecorosi giochi delle parti cui da tempo ci sia capitato di assistere, perché è dallo scorso giugno che l'opposizione fa conto sulle capacità di resistere di Follini, che di fronte ai propositi sempre più birbanzosi del Silvio in carica, alle minacce di mandare al macero i vincoli europei, di eliminare la par condicio, di farsi confezionare una legge elettorale su misura, restaurare se necessario la monarchia, spera quasi esclusivamente nell'aurea moderazione del segretario dell'UDC, oltre che in quella di Fini, che per un residuo pudore non si può dire. E questo senza lasciarsi impressionare se poi alla prova dei fatti quelle speranze si sono via via rivelate ancora più patetiche e vane di quelle riposte nel presidente Ciampi. Che questo significhi delegare a qualcuno del campo avverso il compito di fare il proprio mestiere, ai leader dell'Ulivo, della Gada o di come la volete chiamare, non è venuto in mente mai. Ne avevano in verità molte altre vie aperte davanti. Costituzionalmente incapace di opporsi davvero a qualcosa, assuefatti alla droga dei compromessi e delle mediazioni, troppo occupati a tagliarsi l'erba sotto i piedi l'un l'altro e a cercare un candidato le cui probabilità di soccombere nel confronto lombardo con il Pio Formigoni fossero nonché matematiche assolute, non potevano che sperare che qualcuno gli cavasse le castagne dal fuoco, con il risultato che tutto il dibattito degli ultimi mesi, quello sulla finanziaria, sulla pseudo riforma fiscale, invece che svolgersi come uso nelle democrazie liberali tra forze di governo e forze d'opposizione, si è svolto, come avete notato senza dubbio anche voi, tra il governo e se stesso. E adesso che quell'inaffidabile di Follini, ahimè, sta a Palazzo Chigi, e non si sa chi affidarsi per il futuro. L'unica possibilità in definitiva resta quella di affidarsi a Berlusconi, che si è visto riesce benissimo a fare l'opposizione ai suoi stessi ministri. Non sarebbe la prima volta che la sinistra confida più nell'uomo di Arcole che in se stessa. Lui almeno di ritrosie non ne ha avute mai.